la notte, cala il buio, la luna accende, la luce fioca dei sogni. Il vecchio uomo si volge indietro senza rimpianti, vede il suo passato, vede il suo passato. Ancora il vecchio uomo disegna il futuro sulla tela dei sogni. Lunghi viaggi, mete lontane, sogna il domani, il vecchio giovane uomo, il vecchio giovane uomo. Parlò il vecchio uomo, usò sagge parole, è importante, disse l'uomo, avere dei sogni, liberare la mente, sognare, costruire. Ascoltava, la sua mente correva, correva attraverso i sogni. Che aveva nel cuore, sì, nel cuore, negli occhi.